Voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. I hope this was as much fun for you as it was for me. Me ne importa. E così siamo arrivati anche a 4, alla quarta parte di Eclettica di questa settimana numero 26 della stagione numero 12. Per quanto riguarda Giulio Caperdoni sulle frequenze di Rock FM, in diretta dal martedì alla domenica, con le repliche sommate a 2 a 2 del sabato e della domenica, sempre alle ore 22, poi le pillole, ve le ricordo, alle 10.15 e alle 14.45. Abbiamo aperto quest'oggi con Idea Sonica, la traccia che chiude il loro nuovo disco omonimo, assieme a Jazz Coleman, Killing Joke, a usare la sua voce in questa B-Trial, per proseguire con i Mini Pop, incredibilmente ancora senza contratto. Qui ce li ascoltiamo con una cover di una band che passerà dall'Italia proprio ad inizio luglio, perlomeno per due date, ovvero sia i Flaming Lips. Questa è la cover da parte dei Mini Pop del brano intitolato, così l'hanno intitolato i Mini Pop, Yoshimi. You won't let those robots. modo di dire cosa penso settimana scorsa di questo disco di Lou Rhodes solista, Abbandonati Lamb. Non so se definitivamente o meno, sapete, su queste cose si fanno le dichiarazioni, ma poi si ritorna anche sui propri passi. Album che noi ci stiamo ascoltando con il brano intitolato Why. Già ho espresso le cose settimana scorsa, avete anche il podcasting che vi permette di recuperarle, quindi non mi ripeto. Mazarin, il nome dei Mazarin, già passati come brano in una delle precedenti parti di Eclettica. Questa settimana è importante perché il 12 di aprile passeranno a Milano per un concerto gratuito all'Idroscalo, al Circolo Magnolia, e quindi, non potendo regalarvi i biglietti, mi sarebbe piaciuto farlo, però sono contento che il concerto sia gratuito, mi sarebbe piaciuto farlo perché sui Mazarin ho speso veramente tanto impegno, perché credo in questa band. Allora sono riuscito a ottenere qualche copia del loro disco, e vi ricordo che i più veloci possono vincerlo scrivendo a giulio@radiorockfm.com. ovviamente mi serve un indirizzo tradizionale per potervelo far avere, in quanto è un disco fisico, un CD che vi deve arrivare. Proseguiamo con la musica qua in Eclettica, con quello che è il nuovo disco, grazie alla Home Sleep, in questo caso grazie deve essere sottolineato non so quante volte, perché non c'era certezza del loro futuro. È Different Beat il titolo del disco, è Different Beat il titolo del brano. La band in questione è quella dei Cat. We'll be right back. capire di questo inferno dorato che volontà di potenza e non pretende verità. Prevedere sempre più. Anticipare il possibile del reale tenendo a freno gli spazi dell'accidentalità. Sezionato il mondo soffoca. È un ridere solo a metà. È un ridere solo a metà. È un ridere solo a metà. È un ridere solo a metà. Sole, mare, su di te. Sole, mare, senza me. Gli argini del cuore. Gli argini del cuore. Gli argini del cuore. Gli argini. Cosa capire di questo inferno dorato che è sintomo di impotenza e dona solo efficacia. E lei come si chiama? Aspetti, ce l'ho sulla punta della lingua. Tutto è cominciato così. Mi ero come risvegliato da un lungo sonno e però ero ancora sospeso in un grigio lattiginoso. Oppure non ero sveglio, ma stavo sognando. Era uno strano sogno, privo di immagini, popolato di suoni. Come se non vedessi, ma udissi voci che mi raccontavano che cosa dovessi vedere. E mi raccontavano che non vedevo ancora nulla. Salvo un fumigare lungo i canali dove il paesaggio si dissolveva. Bruges, mi ero detto, ero a Bruges. Ero mai stato a Bruges, la morta? Questo era l'incipit della misteriosa fiamma della regina Loana, di Umberto Eco. If you want. down. Questo è uno dei pochissimi dischi major che compaiono nelle playlist di Eclettica. Infatti vedo qui sopra il simbolo della Virgin sul disco dei We Are Scientists che ci siamo appena ascoltati con The Great Escape. Eclettica che anche questa settimana, questa sera, è arrivata alla sua chiusura. Si chiude qua la quarta parte, si chiude qui quindi la 26esima settimana di Eclettica. Vi ricordo che è il modo per mantenere il contatto comunque c'è, al di là del podcasting, quindi un contatto direi passivo, però attivo all'indirizzo giulio@radiorockfm.com, che è anche l'indirizzo a cui potete scrivere nel caso vogliate essere inseriti nella lista, ormai la definiamo nera, di Eclettica. Casiotone for the Painfully Alone, lo pseudonimo sotto cui si presenta Owen Ashworth, è l'artista che chiude Eclettica questa settimana. Da Etiquette, il brano del momento è il Techno Country di Nashville Parthenon. Alla prossima! Again and again. knowing you'd come home. I wouldn't be alone.